con Fabrizio Grosoli di I Wonder Pictures per parlare del documentario Cristo Walking on Water di Andrei Paunov al cinema dal 16 al 19 giugno 2019. Fabrizio, ben trovato. Bentrovati tutti voi. Come va? Tutto bene, lo raccontiamo brevemente a chi ci ascolta. Si tratta di uno film straordinario a partire da un evento straordinario. Tutti ricorderete che nel giugno del 2016 il grande artista Cristo riuscì a realizzare una delle sue imprese artistiche più impressionanti e memorabili, cioè riuscì a costruire delle piattaforme galleggianti sul lago di Iseo, che permettevano quindi al pubblico di arrivare fino all'isola al centro del lago. Questo era un progetto che lui aveva in mente da tanti anni, e quindi questa cosa di Cristo che permetteva di camminare sull'acqua fu realizzata. Ovviamente all'epoca se ne parlò molto, un evento molto seguito, e il film racconta, per così dire, il making of, la costruzione di questa impresa fino alla sua realizzazione. E credo, insomma, che sia già da questa descrizione del soggetto si possa capire l'interesse di questo documentario, che per me è straordinario da molti punti di vista. Fabrizio, l'opera in sé che tipo di eco ha avuto? Fu attraversata da migliaia di persone nel giugno del 2016, per, se non mi ricordo male, per circa 3 settimane fu allestita e fu operante. E quindi chi ebbe la fortuna di arrivare appunto al lago di Iseo, perché ovviamente c'erano degli ingorghi pazzeschi per arrivarci in quel periodo, riuscì a fare questo percorso artistico particolarmente suggestivo. E quindi è stato veramente un evento memorabile, e il film lo racconta in modo molto puntuale. Quali sono, a tuo avviso, le doti di questo documentario? Dico subito una cosa: il film innanzitutto è stato realizzato da un regista bulgaro, appunto Andrei Paunov, come ricordavi, che a mio avviso è uno dei documentaristi più originali e più interessanti che ci siamo visti negli ultimi 15-20 anni. Ha fatto almeno un paio di film straordinari. Ed è un regista molto, che fa sempre documentari, ma sempre molto narrativi, sempre pieno di humor soprattutto. Ecco, la cosa che colpisce è che non si tratta del solito documentario di omaggio a un artista durante il suo lavoro, anche così particolare. Qui ci sono tantissime storie legate a questa vicenda, e alcune di queste storie sono molto, molto interessanti. Per esempio, come potrete immaginare, c'è tutta la questione del rapporto tra Cristo, tra l'artista, insomma, e il suo entourage, e anche poi tutta la parte, diciamo così, burocratica dell'impresa, per cui i rapporti con le autorità italiane, locali e regionali, che è reso in modo molto brillante. È un po' appunto anche un discorso sulle differenze di cultura, perché l'equipe che fa questa impresa è bulgara, e appunto, come dire, le diverse interpretazioni che potete immaginare legate appunto al rapporto tra un artista e la burocrazia. Ecco, questo mi sembra rappresentato molto bene, ed è un elemento in più per andare a vedere il film, oltre che appunto per rendersi conto di come lavora un artista così particolare. Ecco, proprio a proposito dell'artista, che ritratto ne viene fuori? Come potete immaginare, Cristo non è certo un artista, come dire, di contemplazione e che lavora nell'isolamento. Cristo è un personaggio singolare, anche piuttosto irascibile, piuttosto, come dire, diretto nei rapporti con la gente che incontra. E ne viene fuori appunto l'idea di un personaggio visionario, perché le sue opere sono in qualche modo le opere visionarie, e che però ci si impegna totalmente fino in fondo su ogni dettaglio, nonostante l'età avanzata. Quindi anche questo è un dato piuttosto, come dire, suggestivo. Cioè, Cristo lavora con una serie di persone, le comanda, dialoga, costruisce una dialettica piuttosto complessa e piuttosto curiosa. Insomma, questa sia un altro elemento in più, ovviamente. Ci parli di questa uscita evento di 4 giorni? Ma dunque, intanto è un'uscita importante perché parliamo di oltre 100 sale. Il film ha un suo lancio, come potete immaginare, qui al Biografilm Festival, dove mi trovo. A Bologna ci sarà appunto una sorta di anteprima e sarà anche di fatto il film di chiusura del Biografilm a domenica sera. E poi appunto sarà nelle sale per 4 giorni, queste sale sono oltre 100, ripeto, e sono ben dislocate, si parla anche dei circuiti The Space e UCI, e ci sarà una forte presenza del film ovviamente anche nelle zone vicine al Lago d'Iseo e in tutta la Lombardia, ma comunque il film esce ampiamente in tutte le sale italiane, insomma. E allora ricordiamo l'uscita al cinema dal 16 al 19 giugno 2019 del documentario Cristo Walking on Water di Andrei Paunoff. Un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Grosoli dei Wonder Pictures che lo distribuisce. Fabrizio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Vi ringrazio, a presto, grazie.